Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Nuova Zelanda. Giovane moglie tradita tenta di travolgere la casa della rivale, ma sbaglia villetta. Pronto? Avvocato? Sono la signora Spadafora, Marina Spadafora. Sì, esatto, quella della pratica di separazione Spadafora-Arcuri. No, non è per il tentativo di riconciliazione, no, ormai è tardi, avvocato, no. Non ci sono i margini per una riconciliazione, non c'erano prima e tantomeno ci sono adesso. Le telefono per un altro motivo, sono dai carabinieri in centrale. Sì, sì, tutto bene, ma mi consigliano un avvocato, e così ho pensato a lei. Sì, ho detto carabinieri. No, non si tratta di un incidente stradale. O meglio, in parte sì, ma mi lasci spiegare? Sì, avvocato, temo proprio sia penale. Sì, lo so che lei è un matrimonialista, però vuole ascoltarmi, per favore? Bene, allora, anzitutto, ieri sera ho trovato un SMS della Troia sul cellulare di mio marito. Certo che l'ho trovato perché l'ho cercato. No, non sono autolesionista. No, non ho bisogno di uno psicologo, ho bisogno di un avvocato. Scusi, ma lei non li guarda i legal thriller alla televisione? Mi stavo preoccupando di acquisire prove. Allora, diciamo che mi è partito l'embolo, avvocato, i nervi, capisce, mi spiego? Come l'avevo anticipato, io a mio marito ho dato tutto, ho sacrificato la mia vita, i miei interessi, i miei talenti. A me, per esempio, la montagna faceva schifo, ma ho imparato a sciare e mi sono pure stirato un legamento del ginocchio. Poi vogliamo parlare della barca a vela, i peggiori 15 giorni della mia vita? Ho vomitato anche l'anima perché le isole della Grecia o si facevano in barca a vela o non si facevano. Per amore di quell'uomo ho fatto tutto. Tutto, dalla sodomia al tiro con l'arco. È incredibile quanti sacrifici siamo disposti a fare noi donne per ottenere qualcosa che in realtà non desideriamo. E poi, come se non bastasse, arriva la Troia. E arrivederci e grazie. No, non mi sto dilungando, le sto semplicemente spiegando il progresso, avvocato. Una donna, una madre, ha dei diritti. Ah, grazie, appuntato. Sì, due cucchiaini. Di solito lo prendo col dolcificante, ma adesso li devo tirare su. Scusi, avvocato, qui gentilmente mi offrono un caffè che stavo per svenire. Pensi che l'appuntato viene da Cosenza come mio padre? Anche lui di cognome fa Spadafora. Che combinazione, eh? Da Cosenza. E adesso eccoci tutti qui, in Brianza, la Brianza velenosa, avvocato. Ma insomma, non deconcentriamoci. Ieri ho elaborato un piano d'attacco. Vendetta, tremenda vendetta. Sì, avvocato, capisco che sarebbe meglio un colloquio privato senza testimoni, ma quello che vado a dirle ora l'ho già detto ai carabinieri. E ne sono fiera, avvocato, ne sono fiera. Il problema non è la mia confessione. Il problema è che io ora devo risarcire, rimediare. Insomma, mi faccio spiegare dall'inizio. Allora, dico a mio marito di aver portato la mia Panda dal meccanico e gli chiedo l'Audi perché nel pomeriggio sarei andata all'IKEA e lui, che la sua auto super accessoriata non la mollerebbe neanche un meccanico della Ferrari, in un'ottica di distensione familiare dice ok, però fai attenzione, mi raccomando, mi fido di te, riempimi il serbatoio, eccetera. Il piano era raggiungere la villetta schiera della Troia, entrare nel giardino privato, ararle le aiuole, sfondare l'Audi di mio marito, quindi, contando sull'effetto sorpresa, darmi la gambe, raggiungere la Panda preventivamente parcheggiata lì vicino e tornare a casa. No, avvocato, non ha funzionato. Mi introduco nel villaggio Prato Fiorito, irrompo nel giardino della villetta numero 5, che da indagini pregresse mi risultava essere quella della Troia. Travolgo la sedia d'ondolo, evito per un pelo un bassotto e lì mi sarei già dovuto insospettire perché non mi risultava che la Troia avesse un bassotto. Entro trionfalmente in casa sfondando la porta e cosa ti vedo? Una vecchia coppia, lui e lei, seduti al tavolo della cucina che stavano pelando le patate per il pranzo. Per un po' ci siamo guardati basiti, poi lei si è messa a urlare e lui è svenuto. Insomma, avvocato, facciamola corta, ho sbagliato la villetta. Adesso mi dica lei che cosa devo fare, perché sono molto confusa. Rosa Mogliasso, in libreria con L'amore si nutre di amore, Salani Editore, 261 pagine, 14 euro.